Cari fratelli e sorelle, dopo le grandi feste vorrei oggi ritornare alle nostre meditazioni sui padri della Chiesa e parlare oggi sul più grande padre della Chiesa latina, Sant'Agostino, uomo di passione, di fede, di intelligenza altissima e di premura pastorale instancabile. Questo grande santo dottore della Chiesa è spesso conosciuto almeno di fama anche da chi ignora il cristianesimo o non ha consuetudini con esso perché ha lasciato un'impronta fortissima nella vita culturale dell'Occidente e di tutto il mondo. Per la sua singolare rilevanza Sant'Agostino ha avuto un influsso larghissimo e si potrebbe affermare da una parte che tutte le strade della letteratura latina cristiana portano a Ippona, il luogo dove era vescovo, oggi si chiama Annaba, sulla costa Alcerina. Dall'altra parte si potrebbe dire che da questa piccola città dell'Africa romana, di cui Agostino fu vescovo dal 395 fino alla morte nel 430, si diramano molte altre strade del cristianesimo successivo e della stessa cultura occidentale. Di rado una civiltà ha trovato uno spirito così grande che sapesse accoglierne i valori ed esaltarne l'intrinseca ricchezza, inventando idee e forme di cui si sarebbero nutriti i posteri. Come ha sottolineato Papa Paolo VI, scrisse, si può dire che tutto il pensiero dell'antichità confluisca nell'opera di Sant'Agostino e da essa derivino correnti di pensiero che pervadono tutta la tradizione dottrinale dei secoli successivi. Agostino è inoltre il padre della Chiesa che ha lasciato il maggior numero di opere. Il suo biografo Posidio disse: sembrava impossibile che un uomo potesse scrivere tante cose in una sua vita. Di queste diverse opere vorrei parlare nella prossima catechesi. Oggi la nostra intenzione sarà riservata sulla vita di Sant'Agostino, che si ricostruisce bene dagli scritti e in particolare dalle confessioni. Questa straordinaria autobiografia spirituale, scritta a lode di Dio, che è la sua opera più famosa. E giustamente, perché sono proprio le confessioni agostiniane, con la loro attenzione all'interiorità e alla psicologia, a costituire un modello unico nella letteratura occidentale, direi non solo occidentale, anche nella letteratura non religiosa fino alla modernità. Questa attenzione alla vita spirituale, al mistero dell'io e al mistero di Dio che si nasconde nell'io, è una cosa straordinaria, senza precedenti, e rimane per sempre, sempre un monte spirituale, per così dire. Ma per venire alla vita, Agostino nacque a Tagaste, nell'Africa romana, oggi Algeria. Il 13 novembre 354, da Patrizio, un pagano che poi divenne catecumene, e da Monica, fervente cristiana. Questa donna appassionata, venerata come santa, esercitò sul figlio una grandissima influenza e lo educò nella fede cristiana. Anche ha ricevuto il sale come segno dell'accoglienza nel catecumenato e è rimasto sempre affascinato della figura di Gesù Cristo, dice anche che ha sempre amato Gesù, ma si è allontanato sempre più dalla fede ecclesiale, dalla pratica ecclesiale, come succede anche oggi per molti giovani. Agostino aveva anche un fratello, Naviccio, che era con lui al lago di Como nella preparazione del battesimo, e una sorella, della quale ignoriamo il nome, ma questa sorella era sposata, poi vedova, e fu poi per così dire, abbadessa di un monastero femminile. Agostino era un ragazzo di vivissima intelligenza, ricevette una buona educazione, non sempre era uno studente esemplare, ma ha studiato la grammatica bene, prima nella sua città natale, poi a Madaura e finalmente dal 370 a Cartagine, nella capitale dell'Africa romana, e fu perfetto dominatore della lingua latina. Poi, quando era vescovo, ha molto sofferto del fatto di non aver imparato bene il greco, ha cercato di rimparare un po', e anche non ha parlato il punico, la lingua parlata nelle zone rurali, parlava qualche parola, ma non poteva parlare la lingua. A Cartagine, Agostino lesse per la prima volta uno scritto di Cicerone, poi andato perduto, l'Hortensius, e l'ho letto perché anche se aveva abbandonato la prassi ecclesiale, era sempre in cerca della verità. È realmente un appassionato che cercava con tutta la passione della sua vita conoscere la verità e, mosso da questa volontà, ha letto questo libro e realmente questo libro svegliò in lui l'amore per la sapienza, come scriverà ormai vescovo nelle Confessiones. Quel libro cambiò davvero il mio modo di sentire, tanto che all'improvviso perse valore ogni speranza vana e desideravo con un incredibile ardore del cuore l'immortalità della sapienza. Ma perché era convinto che senza Gesù la verità non è trovata? E perché gli mancava in questo libro appassionante il nome di Gesù? Subito dopo aver letto questo libro ha cominciato a leggere la scrittura, la Bibbia, è rimasto deluso. Non solo perché lo stile latino di questa traduzione della Sacra Scrittura era insufficiente, ma era anche deluso dal contenuto, non trovava questa altezza della filosofia, questo splendore di ricerca della verità nelle narrazioni della scrittura su guerre, altre cose umane. Tuttavia, non voleva vivere senza Dio e così cercava una religione corrispondente al suo desiderio di verità e al suo desiderio anche di avvicinarsi a Gesù. È caduto nella rete dei manichei che si presentavano come cristiani e promettevano che la loro sarebbe una religione totalmente razionale e affermavano che il mondo è diviso in due principi, il bene e il male, e così si spiegherebbe tutta la complicità della storia umana. E anche la morale dualistica piaceva a Sant'Agostino perché c'era una morale molto alta per gli eletti, per gli aderenti come lui si poteva vivere in un modo più conveniente alla situazione del tempo di un uomo giovane di quel tempo e anche del tempo nostro. Così si faceva manicheo, convinto nel momento di aver trovato la sintesi tra razionalità, ricerca della verità e amore di Gesù Cristo. E aveva anche un vantaggio concreto per la sua vita, questa adesione ai manichei, cioè apriva facili prospettive di carriera. Essere aderente di quella religione che contava tante personalità influenti permetteva di continuare la relazione intrecciata con una donna e di andare avanti nella sua carriera. Da questa donna ebbe un figlio, Adeodato, a lui carissimo, molto intelligente, era presente anche nella preparazione al battesimo al lago di Como e ha partecipato in questi dialoghi che Sant'Agostino ci ha tradotto, ma morì poi prematuramente. Agostino fu insegnante di grammatica già a circa 20 anni nella sua città natale, Tornò presto a Cartagine, dove divenne un brillante e celebrato maestro di retorica. Con il tempo, tuttavia, Agostino iniziò ad allontanarsi dalla fede dei manichei, che lo delusero proprio dal punto di vista intellettuale, in quanto incapace di risolvere i suoi dubbi. E si trasferì a Roma e poi a Milano, dove allora risiedeva la corte imperiale e dove aveva ottenuto un posto di prestigio grazie all'interessamento e alle raccomandazioni del prefetto di Roma, il pagano Simaco, antagonista del vescovo di Milano, Sant'Ambrogio. A Milano Agostino prese l'abitudine di ascoltare, inizialmente soprattutto allo scopo di arricchire il suo bagaglio retorico, le prediche del vescovo Ambrogio, che era stato rappresentante dell'imperatore per l'Italia settentrionale, e dalla parola del grande presole milanese il retore africano rimase affascinato, e non solo affascinato dalla sua retorica, ma sempre più il suo cuore fu toccato dal contenuto. E il grande problema dell'Antico Testamento, della mancanza di bellezza retorica, di altezza filosofica, si risolve nelle prediche di Sant'Ambrogio, che gli imparava o insegnava nelle sue prediche l'interpretazione tipologica dell'Antico Testamento, cioè tutto l'Antico Testamento, un cammino verso Gesù Cristo. Così ha trovato la chiave per capire la bellezza, la profondità anche filosofica dell'Antico Testamento e capito tutta l'unità del mistero di Cristo nella storia e anche la sintesi tra filosofia, razionalità e fede nel Logos, in Cristo Verbo Eterno che si è fatto carne. Alla lettura degli scritti dei filosofi, Agostino fece così seguire quella rinnovata della scrittura e soprattutto delle lettere paoline. La conversione al cristianesimo il 15 agosto 386 si collocò quindi al culmine di un lungo e tormentato itinerario interiore, sul quale parleremo ancora in un'altra catechesi, e Agostino si trasferì nella campagna a nord di Milano, zona del lago di Como, con la madre, col figlio Adiodato e un piccolo gruppo di amici per prepararsi al battesimo. Finalmente a 32 anni fu battezzato da Ambrogio il 24 aprile 387 durante la veglia pasquale nella cattedrale di Milano. Dopo il battesimo Agostino decise di tornare in Africa con gli amici con l'idea di praticare una vita comune di tipo monastico, al servizio di Dio e solo alla ricerca della verità. Rientrato ma a Ostia, in attesa di partire, la madre improvvisamente si ammalò e poco più tardi morì, straziando il cuore del figlio. Rientrato finalmente in patria, il convertito si stabilì a Ippona per fondarvi appunto un monastero. In questa città della costa africana fu ordinato, contro la sua volontà, presbitero nel 391. Lui voleva essere solo in servizio della verità, non si sentiva chiamato alla vita pastorale, ma poi ha capito che la chiamata di Dio era quella di essere pastore per gli altri e così di dare il dono della verità agli altri. Come detto, 391 ordinato presbitero, nel 395 venne consacrato vescovo. Continuando ad approfondire lo studio delle scritture e dei testi della tradizione cristiana, Agostino fu un vescovo esemplare nel suo instancabile impegno pastorale. Predicava più volte la settimana ai suoi fedeli, sosteneva i poveri, gli orfani, curava la formazione del clero e l'organizzazione di monasteri femminili e maschili. In breve, l'antico retore si affermò come uno degli esponenti più importanti del cristianesimo di quel tempo, attivissimo nel governo della sua chiesa, con notevoli risvolti anche civili. Negli oltre 35 anni di episcopato, il vescovo di Ipona esercitò infatti una vasta influenza nella guida della Chiesa Cattolica dell'Africa Romana e più generale nel cristianesimo del suo tempo, fronteggiando tendenze religiose ed eresie tenaci e disgregatrici come il manicheismo, il donatismo, il pelagianesimo, che mettevano in pericolo la fede cristiana nel Dio unico e ricco di misericordia. E a Dio si affidò Agostino ogni giorno, fino all'estremo della sua vita. Colpito da febbre, mentre da quasi 3 mesi la sua Ipona era assediata dai vandali invasori, il vescovo chiese di trascrivere a grandi caratteri i salmi penitenziali e fece affliggere i fogli contro la parete, così che stando a letto durante la sua malattia li poteva vedere e leggere, e piangeva ininterrottamente a calde lacrime. Così trascorsero gli ultimi giorni della sua vita. Agostino morì il 28 agosto 430, quando ancora non aveva compiuto 76 anni. Alle sue opere, al suo messaggio e alla sua vicenda interiore dedicheremo anche i prossimi incontri. Grazie.